punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Non ho più casa, non ho più macchina, non ho più niente. Era nel fiume, quindi è stata travolta, cioè non c'è più niente dentro. È una casa popolare che è rivolta al fiume e dovevano costruire un muro e i soldi gliel'hanno dati per costruire e se li sono mangiati. A quasi 4 giorni dall'alluvione che ha devastato il Levante Ligure, la situazione resta critica in molti comuni, in particolare nella provincia della Spezia, dove molte frazioni sono ancora isolate, senza acqua, senza corrente elettrica e gas. Questo dunque il punto a fine settimana. Un saluto da parte mia, io sono Gigi Donelli, questa mattina in regia Pietro Lacorte. Nelle prossime ore siamo qui per raccontarvi quello che è accaduto in questa settimana, dunque partendo naturalmente dal maltempo, dall'alluvione, ma raccontando anche quella che è stata una settimana veramente importante, critica per l'Unione Europea. Sentiremo le interviste, i servizi, sentiremo anche alcune chicche di Radio 24 raccolte attraverso i programmi di Radio 24 sul fronte della politica, sul fronte della politica internazionale. Punto e a capo. Lei però, nei giorni scorsi ha anche puntato il dito, per esempio, contro il taglio di fondi dal governo centrale. Questo è un'altra partita, nel senso che con l'ultimo decreto di febbraio il governo ha detto d'ora in avanti non c'è più un fondo di protezione civile per aiutare, per prevenire anche. E faremo una cosa diversa, un'assicurazione o un fondo con una cifra di un centesimo sulla benzina. Il problema è che a distanza di 8 mesi ormai da quella data non c'è più il fondo di protezione civile e non c'è ancora uno strumento alternativo per intervenire o prevenire. Il governatore Burlando dice poi alle agenzie che lo stanziamento dei fondi è un fatto positivo che rimedia un po' a questo guaio di non avere più i soldi della protezione civile. Un intervento molto tardivo, evidentemente, per le vittime dirette della calamità, per i morti, i dispersi, su cui è intervenuto in settimana anche il capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Tributi molto dolorosi che purtroppo paghiamo ai cambiamenti climatici, ha commentato il presidente Napolitano. La parola chiave resta la prevenzione, ma sono inascoltati gli appelli che da anni lanciano i geologi italiani. Il presidente Gianvito Graziano. Una legge che possa riordinare le competenze e possa una volta per tutte dare un segnale di svolta a questo paese. L'uso del suolo è diventato un fatto, come dire, comune senza che nessuno capisca che utilizzare ulteriormente suolo arreca in qualche modo danno a tutto quello che sta intorno. In Liguria 470 km quadrati sono ad elevato rischio idrogeologico, lo si sa da anni. Al microfono di Laura Bettini, Stefano Sarti, presidente di Legambiente Liguria, ricorda come da anni la cementificazione distrugga il territorio. La cementificazione toglie terreno permeabile e quindi l'acqua poi va dove non è mai andata. Sotto accusa non solo le costruzioni abusive e non, Paolo Pileri, docente del Politecnico di Milano. C'è anche una fortissima, me lo lasci dire, incuria degli spazi aperti. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Cambiamo pagina e parliamo di Europa. Settimana sull'orlo di una crisi di nervi questa per l'Unione Europea, che ha visto tra l'altro la piccola crisi della risatina Sarkozy-Merkel, quella di domenica scorsa, ricordate, che è esplosa soprattutto nel panorama italiano, ma che soprattutto ha visto un sistema, appunto quello dell'Unione Europea, quella dell'euro, davvero in bilico. Mercoledì pomeriggio, il momento decisivo, incontro doppio per Consiglio europeo ma anche per l'Eurogruppo, quindi per i 27 Stati membri da un lato e per i 17 che invece hanno adottato l'euro. Dopo quasi 10 ore di trattative accese, i governi della zona euro hanno messo a punto un documento, un piano di salvataggio della moneta unica che intanto ha portato alla nascita di un super commissario per l'euro. L'incarico è stato affidato al finlandese Olli Rehn, che è l'attuale commissario agli affari economici e monetari. Il comunicato prodotto al termine della riunione illustra un pacchetto complesso, non facile da capire in tutti i suoi aspetti e per certi versi ancora tutto molto da negoziare. Il salvagente comunque prevede tre elementi principali: una ricapitalizzazione delle banche, un potenziamento del fondo EFSF, il cosiddetto fondo salva stati, e anche una ristrutturazione del debito greco. L'obiettivo è di alleggerire il risanamento appunto della Grecia, rafforzando gli istituti di credito per spezzare così il circolo vizioso tra bilanci bancari e debito sovrano. Ma è stata dura arrivare a questo accordo, si parla addirittura di una battaglia notturna nel confronto tra Parigi e Berlino. Ora risentiamo da giovedì mattina il punto fatto da Bruxelles da Gerardo Pelosi. Promozione obbligata, quella ottenuta ieri da Silvio Berlusconi al vertice europeo sulle misure italiane per la compatibilità di bilancio e la crescita. Il Presidente del Consiglio è arrivato ieri pomeriggio a Bruxelles portando la lettera di 14 cartelle sugli impegni dell'Italia, una lettera tante volte vista e rimaneggiata nelle ore precedenti in un infinito via vai tra Roma e Bruxelles, che quando per l'ultima, ennesima volta, il Presidente del Consiglio UE Herman Van Rompuy e il Presidente della Commissione José Manuel Barroso l'hanno presa in mano, hanno ritrovato tutti i loro suggerimenti, il loro stesso linguaggio e soprattutto le date sotto ogni impegno, come era stato richiesto esplicitamente all'Italia da Bruxelles. Viene riaffermato nella missiva l'impegno a portare l'età pensionabile a 67 anni nel 2026, come del resto è già previsto, la possibilità di procedere a licenziamenti nelle aziende in crisi e a dismissioni pubbliche per almeno 5 miliardi di euro. Si chiude quindi, dopo una drammatizzazione forse eccessiva, la trincea europea, dove si archiviano anche i sorrisetti irridenti del cancelliere Merkel e del presidente francese Sarkozy. Gerardo Pelosi, GR24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E ora Adriana Cerretelli sulla Francia e la Germania, sul rapporto tra questi due paesi guida all'interno dell'Unione, ma soprattutto su come, di fronte all'assenza di una chiara volontà politica, il sistema, anche quello europeo, non possa che andare rapidamente in crisi. Ma io trovo che, come al solito, quando arriva sull'orlo del baratro l'Europa fa dei gesti, fa anche dei gesti concreti, e penso che questo sia stato uno di quei momenti. Questa volta si era arrivati davvero sull'orlo del baratro, non se ne parlava ed è per questo che la situazione era ancora più grave. Allora la domanda naturalmente è: basterà questo nuovo intervento a convincere i mercati? Io penso che sul piano quantitativo il gesto ha un certo senso, ma io credo che, come è da sempre in questa crisi, sia il gesto politico quello che manca ancora. Dietro di queste 10 ore di negoziati, Francia e Germania hanno veramente avuto dei momenti di tensione incandescente, proprio perché anche in questa partita non sempre i loro interessi sono coincidenti. E quindi io credo che la via oramai sia quella di procedere, se si riuscirà, ma non lo so, verso la cosiddetta unione economica, quella diciamo che è ormai avviata, ma soprattutto quella politica, cioè ritrovare una visione comune, una volontà comune di fare davvero l'Europa, perché questa moneta comune mi sembra che non riesca a stare in piedi senza tutto il resto. Punto e a capo. Effetto Europa sulla politica interna. Berlusconi incassa il semaforo verde, targato dunque Bruxelles, ma si riporta a casa il peso di una lettera che parla di pensioni e di licenziamenti. Ostenta sicurezza Silvio Berlusconi dopo il documento all'Europa, malgrado la mancata firma di Tremonti e una presunta lettera dei dissidenti PDL in arrivo. Al TG1 il Premier rassicura: tempi certi per l'approvazione delle misure, il programma è sui prossimi 18 mesi. Nega poi Berlusconi di prevedere licenziamenti facili. Noi vogliamo soltanto creare un mercato del lavoro più efficiente, più moderno e soprattutto aperto alle donne e ai giovani. Questo era e resta il nostro impegno per il mondo del lavoro. L'Italia è un paese solido, questa è la tesi del Premier. Abbiamo ereditato dal passato un grande debito pubblico, ma siamo secondi solo alla Germania in termini di solidità economica. Intanto però sarebbe in arrivo una misteriosa lettera dei dissidenti PDL, nella quale si chiederebbe al Premier un passo indietro e di allargare la maggioranza. Missiva che però Beppe Pisano e Claudio Scajola negano di aver mai scritto, né tantomeno ispirato, come lo negano anche i nomi che sarebbero già usciti. Mentre Angelino Alfano commenta di non leggere lettere anonime o fantomatiche. Una cosa è certa invece, la mancata firma al documento europeo da parte del ministro dell'economia. Lo conferma anche l'amico di sempre, Umberto Bossi. Tremonti si è defilato. Un altro capitolo del gelo con il Premier. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Una riforma va fatta, ma non in modo provocatorio. Così la pensa Pietro Ichino, ordinario di diritto del lavoro alla Statale di Milano, in onda giovedì mattina qui a Radio 24. Io ritengo che un intervento sia necessario. Però questo intervento va fatto non in modo improvvisato, innanzitutto perché è una riforma complessa, delicata, che va fatta con molta attenzione, molta preparazione e in modo non provocatorio. Ora, il annunciare, come ha fatto il governo in questa lettera, che si interverrà sugli licenziamenti, sul tabù dell'articolo 18, senza indicare come, senza indicare a quale modello ci si vuole ispirare in questa modifica, perché ci sono tanti modelli, senza dire se questa modifica riguarderà i nuovi rapporti di lavoro soltanto oppure anche quelli esistenti. Ecco, ma tutte queste cose bisogna chiarirle, bisogna anche avere una interlocuzione con l'opposizione. Stesso giorno, stesso tema. Adesso sentiamo Luigi Angeletti della UIL che parla appunto dell'iniziativa del governo a focus economia. Mettiamola così, quanti impegni ha assunto il governo dentro quella lettera N? No? Adesso non ricordo il numero esatto. Tutti molto importanti. Dismissioni, liberalizzazioni, sì, pensioni. Molte sono anche utili e impegnative. Vediamo se il governo le realizza tutte, poi discutiamo alla fine. Ma secondo lei perché è stata inserita la norma sui licenziamenti? Nel senso che alcuni hanno voluto vedere. Glielo ha chiesto la BCE. Mi permette una battuta? Prego. Quando si è fatto l'articolo 8, io ho letto il Corriere della Sera. Licenziamenti facili. Ieri lo stesso dire, licenziamenti facili, ma allora se il problema era stato risolto con l'articolo 8, che bisogno c'era di una nuova norma? Sì, ma lei dice è sempre per dire come viene rappresentata la realtà, no? Sì, ho capito benissimo, però lei vede un qualche legame tra l'articolo 8 e questa promessa fatta a Bruxelles? Cioè che c'è assolutamente due cose completamente diverse. L'articolo 8 serve a dire che nella contrattazione di secondo livello è buona, valida, erga omnes se approvata secondo gli accordi eccetera eccetera, e dice che le parti possono discutere anche del mercato del lavoro se vogliono. E derogare rispetto alla legge nazionale. E derogare rispetto alle leggi, se le parti vogliono, che mi sembra un atteggiamento almeno diciamo così di una qualche... Senta però Angeletti, fornisca al governo una via d'uscita, perché insomma non possiamo il giorno dopo aver presentato una lettera, i mercati oggi vanno bene, non solo per la lettera, anche per la Grecia, per il Fondo Europeo. No, per la lettera no, ma per quello che hanno deciso. Esatto, no, per la lettera no, ma per il Fondo Europeo di Salvataggio, per la Grecia e quant'altro, però lei capisce bene che... Insomma, allora le rispondo esattamente, le ripeto la risposta. Il governo approvi tutti gli punti, tutti gli impegni tranne i licenziamenti. Assunto, tranne i licenziamenti. Poi vedremo se questo è derimente o meno. Non abbiamo bisogno di alcun tavolo di discussione, perché il tema dei licenziamenti non è un problema da affrontare e discutere. Così il leader della CGIL, Susanna Camusso, rispetto alla proposta del ministro del welfare, Maurizio Sacconi, di aprire un confronto con le parti sociali. L'unico confronto possibile, ha aggiunto Camusso parlando a margine della manifestazione dello SPCGL, è solo come dare continuità all'occupazione. Punto e a capo. Sarkozy se l'è presa e tiene un comportamento che lui ritiene di dover tenere, perché in effetti c'è stato uno scontro su questa vicenda di Billy Smaghi, di cui io non porto nessuna responsabilità. A un certo momento gli ho detto: cosa posso fare? Lo uccido? Non credo, no? Ancora un saluto da Gigi Donelli. Dunque, ripartiamo dal caso Bini Smaghi, uno dei problemi maturati in questa settimana e naturalmente in seguito all'arrivo alla guida della BCE dell'italiano Mario Draghi. Un percorso, questo peraltro ampiamente annunciato, che però non è stato risolto nei tempi. Ora la Francia pretende per sé il posto nel comitato esecutivo che l'economista fiorentino occupa dal 2005. E Lorenzo Bini Smaghi giovedì è stato vittima di uno scherzo radiofonico della Zanzara. Ha risposto ignaro ad un finto Umberto Bossi, David Parenzo, che lo ha contattato telefonicamente per sapere come giudicasse l'intervento di Berlusconi, quello della sera precedente, mercoledì sera, a Porta, sentiamolo. Allo? Pronto, parlo col dottor Bini Smaghi? Chi vuole, eh? Chi parla? Questa è la segreteria del ministro Umberto Bossi, cercavamo il dottor Bini Smaghi. Sì, sono io. Buonasera dottore, il ministro vorrebbe parlarle. Ha qualche minuto, sì, da dedicarci, possiamo passarglielo? Sì, sono in macchina comunque, me lo passi. Guardi, penso non si tratterà di molto tempo, glielo passiamo. No, no. Dottor Bini Smaghi, sono il ministro Bossi. Buonasera. Scusi se l'ho disturbato, ma volevo tornare sulla questione della Francia. Sì. No, volevo dire che noi abbiamo preso un impegno con la Francia che bisogna in qualche modo rispettare. A me dispiace, sì, per quello che è accaduto. Noi della Lega volevo farle, sì, sapere che comunque la appoggiamo. Va bene, la ringrazio. Io penso che il Presidente del Consiglio lo sa tutto questo e poi troverà una soluzione, penso. Ancora non si è trovata una soluzione? Sono fiducioso. Non si è ancora trovata una soluzione. Però bisogna... No. E come facciamo a risolvere? Anche qui la Francia ogni giorno ci telefona, sta così, diventa una situazione insostenibile per l'Italia, lo spread è un disastro. Non so come possiamo fare. No, io penso che si troverà, non si preoccupi, io penso che si troverà, l'ho già detto anche... E come si può trovare un po' insieme? Se c'è bisogno di insieme, qualcosa, andare pubblicamente così alla televisione e di chiedere una cosa che poi rende difficile, capito? Perché se uno chiede le dimissioni di una persona che in teoria non si dovrebbe dimettere perché deve fare fine a mandato, poi gli rende anche difficile poterlo fare, no? Ma deve farlo in modo un po' discreto. Lei ha ragione. E poi... Ma abbiamo messo il governo italiano che l'ha messa lì, quindi bisogna capire magari una compensazione, una banca al nord magari per Bini Smaghi, una banca del nord. Ma guardi, non lo so. Bisogna capire come risolvere. Lei non si preoccupi. Non si è preoccupati per l'Italia, per il paese, per il paese. Non si preoccupi. Parlato che con Calderoni prima. Va bene, comunque scusi se l'ho disturbato, adesso torniamo no, anche non noi si preoccupi. A lavorare al nord con Renzo, con Calderoni. Grazie. Buon lavoro, dottore. Dal finto al vero Bossi, protagonista questa settimana di una nuova polemica all'arma bianca con il presidente della Camera Fini, reo di avere ricordato durante una trasmissione televisiva la pensione baby della moglie del leader leghista. Lo scambio Fini-Bossi degenera poi in aula in vera e propria rissa. Inizia con una rissa al mattino, finisce con uno scambio di insulti tra Bossi e Fini e due bocciature nell'aula della Camera. La giornata non è delle migliori, non piace al Carroccio l'intervento a Ballarò del presidente di Montecitorio Gianfranco Fini, che accusa la moglie di Umberto Bossi di essere una baby pensionata. In aula interviene il capogruppo Marco Reguzzoni. È inopportuno che il presidente della Camera si sieda in uno studio televisivo alla pari di altri leader politici. Il PDL promette poi che investirà del caso Fini il capo dello Stato Giorgio Napolitano, mentre dal PD Dario Franceschini difende il Presidente della Camera. Ma prendete atto che il Presidente della Camera, dal minuto dopo la sua elezione, non è in alcun modo suscettibile di sfiducia, né politica né formale. La situazione in aula degenera e rissa. Due deputati, Claudio Barbaro di Future Libertà e Fabio Ranieri della Lega, si prendono a schiaffi. La seduta viene sospesa, ma nel pomeriggio Umberto Bossi manda Fini a quel paese. Andare a quel paese. Se uno va in pensione ci va con le regole che ci sono. Il presidente della Camera chiosa, preferisce restare su cose serie, dice. Nel pomeriggio il governo intanto va sotto due volte, uno su una mozione dell'IDV, mentre un'altra del PDL viene bocciata e fanno 94 volte. Elisabetta Fiorini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Montecitorio. Punto e a capo. 12 anni fa abbiamo celebrato la quota 6 miliardi di abitanti sul pianeta Terra. Bene, era il 99, ora è tempo di stringerci di nuovo. Dalla prossima settimana saremo in 7 miliardi, ci racconta tutto Laura Bettini. Non sappiamo dove né precisamente quando, ma secondo l'ONU comunque la prossima settimana sulla Terra saremo 7 miliardi. Cioè nascerà il 7 miliardesimo, se si dice così, abitante del pianeta. Chi sarà? Ovviamente non è dato saperlo, ma così, visti i tassi di natalità, è probabile che il piccolo esserino veda la luce in India, dove nasce un bambino su 5 dei venuti al mondo. Insomma, cercando però di stare più sulle generali, il bambino in questione ha molte chance di essere asiatico, dove avviene il 55% delle nascite, o africano, 25% delle nascite al mondo. Che invece sia europeo è molto più difficile, perché da noi si verifica meno del 6% delle nascite mondiali, ma non si può mai dire. Sembra ieri, ma invece sono 12 anni che abbiamo festeggiato i 6 miliardi sulla Terra. Stiamo ancora domandandoci quanta gente possa sopportare questo pianeta. La risposta non l'abbiamo, ma che i nodi stiano venendo al pettine è piuttosto chiaro. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. È un mondo di giovani quello che si muove intorno a questo nostro primo mondo che invecchia. Un mondo di giovani che nel corso dell'ultimo anno è stato protagonista della protesta, a volte di vere e proprie rivoluzioni, come è accaduto anche nella vicina Tunisia. Ve lo ricordate, credo, nel gennaio di quest'anno, la fuga del presidente Ben Ali, che dopo essersi fatto rieleggere per la quinta volta consecutiva, non ha retto invece l'impatto della cosiddetta rivoluzione del gelsomino. Tutto era precipitato dopo l'impressionante suicidio del giovane Mohamed Bouazizi, un commerciante, un giovane ambulante che si era dato fuoco davanti alla sede del governatorato di Sidi Bou Said. Bene, domenica scorsa il voto per 10 milioni di tunisini. L'esito ci racconta che la maggioranza e quindi la forza principale per disegnare il futuro costituzionale del paese è andato al partito confessionale Ennahda, guidato da Rachid Ghannouchi. Intanto è però ancora Sidi Bou Said che torna al centro della cronaca. Alberto Negri ci racconta il perché in questo servizio. Guerriglia urbana, sedi di partito bruciate, poi di notte la calma e gli scontri sono ripresi tra manifestanti e polizia proprio questa mattina. Così Sidi Bou Said ha accolto i risultati elettorali. Questa è una città simbolo della nuova Tunisia, dove il 14 dicembre 2010 si diede fuoco a Mohamed Bouazizi, giovane che immolandosi avviò la primavera araba. A Sidi Bou Said, nella corsa per l'assemblea costituente, aveva vinto a sorpresa Petizione Popolare, una formazione ambigua legata ad ex islamici ed esponenti del vecchio regime, che ha visto molti voti annullati per irregolarità. Il partito è guidato a Londra dal tycoon di una TV satellitare, Hamsham D. I giovani della città avevano già cominciato a spendere nei negozi i soldi che Hamdi aveva promesso di elargire in caso di vittoria. Grande è quindi stata la delusione di Sidi Bou Said quando è stata resa ufficiale la netta vittoria di Ennahda, il partito islamico, che si avvia a formare una coalizione di governo con un paio di partiti laici. Gli islamici adesso rassicurano i laici timorosi di una deriva musulmana conservatrice e il mondo degli affari. La speranza è che dalla rivoluzione dei gelsomini arrivi un'ispirazione democratica e moderata per il resto della primavera araba. Dalla Tunisia alla Siria, a Damasco sono stati almeno 20 i civili uccisi dal fuoco delle forze di sicurezza nella giornata di protesta di ieri, venerdì, che tradizionalmente è di festa nel mondo arabo, ma che in Siria ormai da molti mesi è giorno di proteste e di sangue. La maggior parte delle vittime è stata segnalata nella città di Homs e Hama, così secondo l'Osservatorio Siriano dei Diritti dell'Uomo. Punto e a capo. Ultima parte del nostro appuntamento del sabato con le notizie della settimana e come sempre dedichiamo questi ultimi minuti al relax, insomma, al teatro, al cinema, allo sport tra qualche momento. E allora partiamo dalle nuove uscite, 400 copie per La peggior settimana della mia vita, il film d'esordio di Alessandro Genovesi. È la storia di una settimana tragica ed esilarante di un promesso sposo a pochi giorni dal matrimonio. Il co-sceneggiatore e protagonista Fabio De Luigi. Essendo la mia peggior settimana, potevo anche metterci qualcosa di mio, in effetti. In realtà abbiamo pescato da questa commedia inglese, abbiamo lavorato a quattro mani con Alessandro Genovesi e tutto questo nasceva dall'esigenza di mettere il sottoscritto nelle condizioni migliori per dare forse, non so se il meglio di me, però comunque per mettermi in una condizione dove potessi esprimere al meglio il mio modo di far ridere, di far divertire, ecco. Quante volte questa settimana, in questi giorni di promozione, ti hanno chiesto qual è stata la peggiore settimana della tua vita? Questa è la 56esima, quindi no, tu non me lo stai chiedendo. No, no, infatti me l'hanno chiesto in tanti, infatti ho appena detto in conferenza stampa la prossima volta farò, almeno se mi capiterà ancora di scrivere un film, lo intitoleremo Argomento a piacere. E nei panni dell'amico Pasticcione, uno dei campioni d'incassi della scorsa stagione cinematografica, Alessandro Siani. Mi hanno chiesto di fare una partecipazione, ho potuto lavorare sui testi, sulla sceneggiatura, e quindi questa cosa mi dava la possibilità di partecipare a questo film che, secondo me, dopo Benvenuti al Sud, è una di quelle commedie che veramente sono particolari, che possono creare veramente uno spaccato tra il cinepanettone, la commedia classica. Ci può essere questo genere di film che è all'americana, però vestito su misura su noi italiani. E tra l'altro che è poi il genere che l'anno scorso, soprattutto appunto grazie al vostro apripista di Benvenuti al Sud, ha un po' fatto da termometro del cambiamento dei gusti degli italiani. Sì, diciamo c'era una controtendenza sullo stile della comicità, su quello che poteva funzionare, però secondo me lo dico a tutti gli amici che mi stanno ascoltando, che stanno pure pensando: ma perché Alessandra sta parlando così seriamente? No, perché ogni tanto fa pure simpatia e fa anche un po' piacere con questa musica di sottofondo, con questa ragazza bellissima come fa le interviste. Questo ovviamente la mando in onda per forza. Io ho detto: se pure mi tagli tutta l'intervista, almeno che sto me lo trattiene. E quindi no, devo dirti che il film La peggiore settimana della mia vita è un film che sicuramente il pubblico non resta deluso proprio per quanto concerne proprio la risata, cioè sul ridere e sulla mancanza di volgarità. Quindi questo era una cosa che secondo me è importante. In uscita anche in questo fine settimana, Missione di pace, una commedia farsesca che dissacra ironicamente una missione nei Balcani. Il film è diretto dall'esordiente Francesco Lagi, interpretato da Francesco Brandi e da Silvio Orlando, che racconta ridendo come ha deciso di girare questo film. In realtà non ho mai detto sì a questo film. Alla fine. Ho detto solamente una volta, non mi è mai stato chiesto. Allora ho cominciato a scrivere questo film pensando a noi due. Dopodiché sono stati 3 anni a scrivere questo film sempre su noi due. Io non l'ho scoraggiato, però non ho neanche incoraggiato la cosa. E alla fine, dopo 3 anni, ho detto sì, ma io non vorrei farlo. È successa la lira di Dio: ma come lo fai? Perché abbiamo scritto su di te. E alla fine l'ho dovuto fare per forza. È bella, solo che alla fine lavorare con una troupe così giovane, veramente senti quel click. E l'ho sentito in questo film, quando ti senti dall'altra parte della sponda del fiume, cioè dall'altra parte del marciapiede, e sono così giovani che così improvvisamente mi sono sentito vecchio. Soprattutto i film vanno giudicati dall'ultimo giorno di riprese, alla festa di fine film. Lì capisci tutto, come è andato il film. gli innamoramenti che ci sono stati, le storie, incomprensioni, gli odi, ecco, io, se voi andate a vedere quelle feste di fine film, questa festa di questo fine film, io mi sentivo molto molto molto vecchio. Grazie allora a Marta Cagnola, che come di consueto ci ha portato gli aggiornamenti dal mondo del cinema e degli spettacoli, e un saluto invece a Carlo Genta. Ciao Carlo, buongiorno. Buongiorno a te Gigi, a tutti. Allora, questa è stata una settimana segnata da un turno infrasettimanale, ma che riparte questa sera da un grande classico. Riparte coi botti oggi veri e propri, perché è uno dei momenti clou di questo inizio di stagione. Oggi naturalmente le tre di Champions League in campo, perché in settimana ci sarà anche l'Europa col Napoli, che ha questo viaggio da brividi a Monaco di Baviera. Ebbene, oggi in campo il Milan, il Napoli e l'Inter, ma anche la Juventus. È il giorno del big match questa sera, Inter-Juventus a San Siro, 20:45, partita dai mille discorsi, dalle mille polemiche, dalle mille suggestioni. Partita che sarà preceduta, quindi sarà importante anche questo. Inter e Juventus andranno in campo conoscendo il risultato del Milan e del Napoli. Il Milan gioca alle 18, comunque una partita tutt'altro che banale, anzi un esame vero e proprio all'Olimpico con la Roma, e il Napoli va sul campo di un Catania, va sul campo di un Catania che sta andando molto forte, Gigi. Insomma, tutto si può dire in queste prime giornate di campionato, meno che non sia divertente, a parte per noi interi, diciamolo, sì. Ma insomma, per il resto lo spettacolo è vivace. A proposito dell'Inter, come dire, gli esami non finiscono mai. Certo che stasera è pesante dal punto di vista dei neroazzurri, perché perdere ancora una volta vuole dire veramente arrivare a Natale in condizioni drammatiche. Guarda, sull'interesse del campionato c'è il solito vecchio discorso: livellato verso l'alto, verso il basso. Io direi livellato verso chi se ne frega, perché ci stiamo divertendo, tutte le squadre sono lì raccolte in un pugno di punti. È vero che la capolista non ha mai avuto così pochi punti nella storia recente, 16 alla Juventus, però comunque ci stiamo divertendo, e soprattutto c'è un'enorme incertezza, che credo sia il senso di tutto il discorso. Per l'Inter la partita di questa sera assomiglia a un'ultima chiamata, e Ranieri grosso modo l'ha detto. Per la Juventus capolista è un esame importante, perché ieri sono state simpatiche, sono state piene di interesse le dichiarazioni di Conte, che ha detto: dobbiamo sprovincializzarsi. Questo cosa vuol dire? Negli anni scorsi c'era questo sentimento che accompagnava la sfida con l'Inter come la partita più importante dell'anno, quella chiave, quella che ti faceva vivere o morire. E Conte ha detto: magari l'anno scorso abbiamo vinto questa partita e poi siamo arrivati settimi, non deve più succedere, ci interessa il bersaglio grosso, l'obiettivo finale, dunque la partita di questa sera conta, importante sì, ma conta 3 punti, e mi sembra un discorso corretto. E di certo, se c'è qualcuno che ha, come dire, delle ragioni di arrivare in campo piuttosto teso, non è Conte. No, è Ranieri, in questo momento. Ranieri, anche perché, come dicevo, per l'Inter somiglia all'ultima chiamata questa partita. La settimana non è andata benissimo, questo pareggio sul campo dell'Atalanta poteva andare peggio con l'ennesimo rigore. Questo è un altro dei temi che ci accompagneranno nel weekend, perché immaginati cosa succede se ci fosse un altro rigore, magari dubbio, contro l'Inter, viene giù lo stadio, comunque vengono giù gli occhiali dal naso al presidente Moratti. Ebbene, per l'Inter, che è molto attardata, secondo me in maniera decisiva, è attardata in maniera decisiva nella corsa scudetto, questa è l'ultima chiamata. Battendo la Juventus può certamente accorciare le distanze, può riacquistare fiducia, eccetera eccetera, però se tra le due è molto più importante per l'Inter, molto più decisiva per l'Inter che non per la Juventus. Ecco, hai citato il Catania, e quindi squadre che con ambizioni del tutto diverse, però appunto stanno sorprendendo anche in certi momenti, sì, tutt'altro sì. Che rinunciata Tutt'altro che rinunciatari, e Catania appunto guida la pattuglia degli underdog, come dicono in America, degli outsider. È chiaro che il Napoli in questo momento sta un po' subendo la pressione delle coppe europee. Sappiamo che c'è stata questa ressa, questa fiume di folla in davanti ai botteghini del San Paolo per acquistare questi biglietti, non per la partita interna ma per quella di Monaco di Baviera. Quindi è un Napoli che ha la testa in Europa, ha mille suggestioni europee, che può davvero passare il turno in Champions League. È chiaro che questo in qualche modo peserà su un Napoli che secondo me può correre per lo scudetto fino alla fine. Vogliamo ricordare in conclusione gli appuntamenti del fine settimana con lo sport a Radio 24? Ma naturalmente oggi pomeriggio dalle 17 alle 18 a Tempo di Sport, e domani anche per parlare insieme di tutti i temi che il sabato ci lascerà, dalle 16:30 alle 19, e poi c'è il basket dalle 20:30 alle 21 per i risultati del campionato di pallacanestro. Grazie a Carlo Genta, grazie a Pietro Lacorte in regia questa mattina, grazie a tutti voi cari ascoltatori di Radio 24. Bene, siamo arrivati in conclusione, adesso tra poco vi ricordo il consueto appuntamento, dopo il giornale radio naturalmente, con l'Europa, il nostro appuntamento del sabato. Vi ricordo infine www.radio24 per sentire e risentire tutte le trasmissioni della nostra emittente, e naturalmente a questo punto non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana. A presto!